La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui, amici di Radio 24, amici all'ascolto, amici del cinema. La Rosa Purpurea, come tutte le settimane, come tutti i weekend, per raccontarvi tutte le novità nelle sale cinematografiche italiane. Come sempre, avere qui con noi in questa ora di cinema un po' di registi, attori, dichiarazioni, suoni che arrivano appunto dal grande schermo. Franco D'Assisi in studio, una puntata ancora estiva, ancora più estiva, perché andiamo in onda proprio nel momento in cui la stagione cambia, che l'estate al cinema sia arrivata, lo dicevamo già settimana scorsa, e si è cominciato anche a vedere un po' al botteghino, dove c'è stata una certa flessione dovuta inevitabilmente al fatto che molti cominciano, finite le scuole, a partire per le vacanze. Io vi ricordo sempre che il cinema è un luogo fresco, con l'aria condizionata, dove si sta belli tranquilli per un paio d'ore, anche nella calura, anzi soprattutto nella calura estiva delle nostre città, e quindi è un posto dove l'estate può passare in maniera un pochino più gradevole, magari in compagnia di un buon film. È un'altra delle caratteristiche spesso dell'estate, piccole perle dimenticate nei meandri dei listini delle distribuzioni che vengono fuori proprio in questo periodo e possono essere magari rivelazioni autentiche. Ce n'è un qualcuno di film di quelli che escono in questo weekend che potrebbe avere queste caratteristiche. Avremo pane per molti denti per chi ama le commedie. Arriva Una notte da leoni, Hangover, un film che sta sbancando letteralmente il botteghino in America. E poi per chi ama l'animazione tridimensionale, anche i film con gli occhialini per intenderci, ecco Coraline, il nuovo film del regista che già ci diede, insieme al genio di Tim Burton, Nightmare Before Christmas. E poi molto cinema indipendente, molto cinema d'autore, vicende sentimentali, umane, fresche, anche cinema di genere dall'Italia, pensate, con Il Solitario. Quindi insomma abbiamo parecchia carne al fuoco, avremo come sempre il gioco, il nostro DVD game che vi fa vincere ogni settimana splendidi DVD, e avremo anche le anticipazioni dagli Stati Uniti, perché la nostra Michela Bellisario ha preparato il suo intervento niente meno che sul nuovo film di Meryl Streep, quindi vi racconteremo anche questo. Per cui abbassiamo le luci, entriamo nel clima della sala cinematografica con il nostro audio sommario. Ti ho conosciuto venerdì, sabato siamo andati a letto, domenica ho incontrato tua madre e ora dici che vuoi troncare. Mai avuta una storia così tanto concentrata. Mamma, sei giusto in tempo per la cena, cara. Tu non sei mia madre. Mia madre non ha quei bottoni. Ti piacciono? Io sono la tua altra madre, sciocca. Pronto? Tracy, sono Phil. Phil, ma dove diavolo siete? È presente l'addio al celibato? Siamo andati un po' fuori di testa e abbiamo perso Doug. Che? Ci dobbiamo sposare tra 5 ore. Sì, io non ci conterei molto. Io sto andando via. Io sono già partita. Non esisto più. Tu sei diverso. Tu sei come un figlio. Sul serio, io amo anche solo guardarti mentre fai qualunque cosa. Amo quando io ti amo, Alexis, ti amo. Sono passate 5 settimane. Andiamo a vivere insieme? E cominciamo proprio con il film inerente a questo ultimo spezzone di trailer che avete sentito. Cosa succede se una persona pensa di dare in pasto la propria amatissima fiamma al migliore amico, che è un tipo giusto, insomma, uno di quelli che con le donne ha un certo successo, chiedendogli di trattarla male, così lei capirà che cosa si perde rifiutando gli avance del suddetto personaggio. Insomma, prendi la mia donna, trattala male e falle sentire la mia mancanza, parafrasando una celebre canzone. Prova a spiegarcelo Diego Giuliani raccontandoci La ragazza del mio migliore amico con Kate Hudson, Jason Biggs e Alec Baldwin. Sentiamo. Spiegami come funziona. Lasciami chiarire bene una cosa. Prima che possa amare te, lei deve arrivare a odiare me. Ma prima che possa odiarmi, le devo piacere. Io ho previsto un incontro carino. Tank è una sorta di Rusty il selvaggio del terzo millennio. Rude e sboccacciato quanto basta per far girare la testa praticamente ad ogni ragazza. Soprattutto se brava, bionda e affamata di nuove esperienze come la bella Alexis interpretata da Kate Hudson. Peccato che tra loro ci sia in mezzo Dustin, coinquilino e migliore amico di Tank, troppo bravo e troppo innamorato addirittura per lei. e peccato soprattutto che della sua tendenza innata a sedurre e poi trattar male le donne, Tank abbia fatto addirittura una professione. Perché hai ragione, io ti devo una spiegazione, la ragione per cui non sono venuta a letto con te è perché non sei attraente, ecco, l'ho detto. Oh, grazie, grazie, ti ringrazio moltissimo. Sei al di sotto dei miei standard anche per una scopata pietosa di una notte, io mi sono fatto delle vere scrofe, Alexis. Già, scrofe, vacche, pecore. Decisamente meno smaliziato il suo amico Dustin, avvocato vegetariano col volto bambino di Jason Biggs e il savoir-faire di un quindicenne al primo appuntamento che da tempo corre appresso alla sua bionda collega. Per lei inizia a fare jogging, a mangiare carne e quasi a improvvisare serenate. La strategia dello zerbino ha però vita breve, la melassa presto la stucca e le accende la voglia di più piccanti assaggi. Seriamente però io adoro, io amo semplicemente guardarti fare qualunque cosa. Io amo quando... Io ti amo, Alexis, io ti amo. Ci siamo detti più di una volta che sarebbe stata una cosa sportiva. Non lavoriamo insieme. Non abbiamo neanche fatto sesso! Più vicino all'ingenuo adepto di Woody Allen di Anything Else che allo scatenato collegiale di American Pie, Biggs pensa quindi di aver trovato l'uovo di Colombo, la soluzione in casa del salvacoppie Tank. Il piano è semplice e collaudato, farlo uscire con lei, dimostrarle quanto può essere ributtante un uomo e indurla così a tornare di gran carriera tra le sue braccia. Ovviamente nulla andrà però come previsto. Tutto a posto? Bel volo. Io sono Alexis. Risultato è un triangolo di equivoci e sotterfugi dagli angoli molto smussati e prevedibili. Lui ama lei ama l'altro, ma l'altro è un duro dal cuore di pietra e i modi da carpentiere. Non fosse una commedia e per di più hollywoodiana, finirebbe probabilmente in tormenti e mal di pancia. Dichiarato modello più volte citato è però quello di Harry ti presento Sally, un pizzico di malizia in salsa di trasgressione affogato in buoni sentimenti all'americana. Una donna deve poter dire, senza sentirsi in colpa, che cosa voglio davvero dalla vita. Ecco perché il mio corso di studi femminili sarà centrato sulla liberazione e l'esplorazione di te e di te. Inevitabile quindi che dopo giravolte sbandate del caso le tessere del mosaico tornino ad incastrarsi. E se a fare da contrappeso alla deriva buonista compare il Don Giovanni maschilista Alec Baldwin nel ruolo del padre di Tank, unica concessione alla creatività è la diversa composizione del quadretto finale. Con buona pace della fantasia e senza scossoni in regia da parte del semi sconosciuto Howard Deutsch, non è da meno la sceneggiatura dell'altrettanto anonimo Jordan Kahn. Sbagliato sarebbe però pretendere qualcosa di diverso e di più. Nella sua più assoluta prevedibilità, il film mantiene appieno le promesse di rassicurante commedia romantica. La rosa purpurea. Che è successo ieri notte? Addio! Che mi manca un dente? Di chi è questo bambino? Controlla un po' il collare. Quelli che avete sentito sono i postumi di una sbornia epocale, che fanno così da centro gravitazionale di un film, del prossimo film di cui vogliamo parlarvi. Si intitola Una notte da leoni nella versione italiana, ma il titolo originale è più proprio perché è Hangover, ovvero proprio quello stato di malessere, diciamo così, o dell'essere che si palesa dopo che qualcuno ha alzato un po' troppo il gomito durante una notte brava. Ed è proprio di questo si tratta, appunto, Una notte brava, che viene raccontata anche con i suoi postumi. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo. Ti troviamo tra l'altro in mezzo all'acqua, c'è sotto un suono straordinario e soave, penso di piscina, se non ho capito male. Dove sei? È solo lavoro, siamo al Taormina Film Fest. E qualcuno lo deve pur fare, certo, capisco. Sì, appunto, insomma, per voi lo faccio io. Ecco, benissimo, ti ringraziamo molto e andiamo avanti allora. Una notte da leoni quindi, no? Ma la mattina dopo? La mattina dopo è terribile perché ci si sveglia con una tigre nel bagno, un bambino nel guardaroba, senza un dente, senza un anello e senza uno dei tuoi compagni, proprio lo sposo di questo addio al celibato lungo 3 giorni, o almeno questa era la speranza che avevano i nostri 4 moschettieri, a Las Vegas. Si sa che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, in questo caso però ce lo raccontano perché lo spettatore, insieme ai 3 protagonisti, Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, devono ritrovare lo sposo perduto e devono ripercorrere in una Las Vegas insolitamente diurna, cinema, quasi mai al cinema si è vista di giorno, Las Vegas, questa notte folle in cui appunto devono spiegarsi il perché della tigre, il perché del fatto che hanno in mano le chiavi della macchina di un'auto della polizia e tante tante altre cose, compreso l'incontro con Mike Tyson che canta Phil Collins. Siamo veramente alla follia con Mike Tyson. Due cose, Mike Tyson canta Phil Collins e dà un pugno, entrambi da KO. Mike Tyson, ora arriva la mia parte preferita. Ancora li stende. E allora ti chiedo una commedia, evidentemente una commedia di queste un po' sconclusionate, se vogliamo, proprio volutamente, di questa gioventù che non vuol crescere, potremmo dire, però sempre molto simpatica e divertente. Come funziona il film, visto che gli ingredienti sono così particolari e così surreali sotto un certo profilo? Guarda, se mi passi il neologismo, è neorealismo demenziale, perché tutto è estremamente realista. Chiunque abbia avuto i postumi di una sbornia sa benissimo che quello, le facce che vediamo, gli occhi che vediamo, le parole che sentiamo, i fatti che accadono, purtroppo sono accaduti a ognuno di noi quella volta maledetta che abbiamo alzato troppo il gomito. Bisogna dire che il regista è Todd Phillips, un pazzo scatenato che è stato capace nella stessa vita, nella stessa carriera, di raccontare in un bel documentario il punk Gigi Allin e di fare Starsky Hutch, quindi il punk e il pop, un pazzo totale. E qui racchiude tutta questa sua anima, raccontando tutto quanto, non a caso mettendo Galifianakis, che è chiaramente un nerd, un comico surreale, e Bradley Cooper, che è il classico figo hollywoodiano, prossimo divo. L'ubriacatura è arrivata anche al box office, perché in America ha superato addirittura l'app della Pixar, e oltre i 100 milioni di dollari, e non accenna a fermarsi, che per un film a budget medio-basso è una cosa enorme. E allora noi andiamo ad ascoltare proprio Todd Phillips, che ragiona attorno al motivo per cui, secondo lui ovviamente, questo film sta funzionando così bene. Sentiamo. You know, there are a lot of movies about a lot of subjects all the time, and I think that certain ones stand out. Si fanno un sacco di film su un gran numero di argomenti. Poi ce n'è uno che si fa notare, e io credo che questo funzioni per diverse ragioni. Ma senza analizzare troppo, credo che questo film si differenzi da tutti quelli che parlano di Las Vegas e delle notti folli, perché per tutta la durata aspetti un evento che poi non vedi mai. Questo lo rende più interessante. Mi piace poi pensare che sia più divertente degli altri. Funziona nel suo insieme, ma non so. Grazie allora a Boris Sollazzo per averci raccontato Una notte da leoni a bordo piscina. Questa volta te la perdoniamo, la prossima volta devi portarci con te. Assolutamente, una buona notte da leoni a tutti. Salutato allora il nostro inviato in ammollo, Boris Sollazzo. Noi apriamo la prima finestra sul DVD Game di questa settimana facendovi ascoltare la prima delle tre tracce di un film misterioso che dovrete indovinare. Ascoltiamo insieme. Questo sei tu? Sì. Sei stata a Parigi? Mai stata da nessuna parte. Beh, allora forse ti porterò con me, eh? Ci torno alla prima occasione che mi capita, ti assicuro. Le persone sono vive lì, non come qua. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il DVD proprio di questo film, nel prosieguo della trasmissione avrete altre possibilità. Noi proseguiamo con un'altra proposta in sala. Un film che arriva dalla Serbia. Il film racconta 24 ore nella vita di una donna nella Belgrado contemporanea. La donna si chiama Anika, è divisa fra l'amore per un boss e la voglia di scappare in Occidente. Il film si intitola Amore e altri crimini, ce lo racconta Annalisa Misceo. Anica vive a Belgrado, o meglio, trascina la sua esistenza a Belgrado. Ha un lavoro non ben definito nel solarium del suo uomo, un piccolo boss di quartiere di parecchi anni più vecchio e con una figlia adolescente autistica, giorni tutti uguali e un progetto, andarsene per sempre. Lo farà la sera di un giorno d'inverno, sotto la neve, dopo aver salutato tutti i suoi amici e la nonna, chiusa in un ospizio. Sai, nonna, devo dirti una cosa molto importante. Cosa? Ho rimandato per tanto tempo. Oggi è il grande giorno. Che vuoi, figlia mia? Qui ci danno fagioli tutti i giorni. Ho deciso che stasera prendo... No, rubo i soldi del solarium. E me ne vado. Amori e altri crimini è il racconto del giorno che precede la sua fuga. Tutto è pronto, la casa svuotata, le valigie fatte, il biglietto aereo in borsa. Salutata la nonna, restano solo da sistemare le ultime cose e tenere nascosto il progetto al suo uomo. Ma i suoi programmi sono scoperti da Stanislav, uno dei dipendenti del boss, che in cambio del segreto le chiede di permettergli di andare via con lei. E le confessa il suo amore. Lo sai quando è stato che mi sono innamorato di te? Probabilmente 12 anni fa, quando litigavi con il tuo amico... Janko. Marco. No. 10 anni fa. Quando ti ho visto la prima volta completamente nuda. Dopo le prime iniziali resistenze, Anica consente a farlo partire con lei. Stasera, alle 8 al solarium. Prendiamo i soldi e ce ne andiamo per sempre. Crimine organizzato, racket, guerra tra clan sono gli elementi di un thriller che qui invece fanno da sfondo a storie di vita raccontate con delicatezza e cura meticolosa dei particolari, soprattutto della quotidianità. La vita di Anica, che decide di abbandonare tutto e tutti in cerca di un destino migliore, quella di Milutin, perso davanti alla malattia della figlia, e quella di Stan, ragazzo per bene che sogna di diventare un prestigiatore e costretto dalle circostanze a essere un delinquente di malavoglia. A fare da quinta questo racconto garbato e romantico, una Belgrado per contrasto grigia di cemento e ancora ferita dalla guerra e dal regime di Milosevic. Questi sono gli altri crimini, ma il crimine più grande, alla fine, è l'amore, che arriva inaspettato e può farti cambiare strada. L'amore che può farti sbagliare, ma che può anche salvarti, con un prato di rose in un giardino d'inverno, con una canzone o con un gioco di prestigio. Che tengo miedo a perderte, perderte después. E dalle 24 ore nella vita di una donna in Serbia passiamo al weekend invece caldo e terribile di una coppia che si incontra per caso nell'Australia contemporanea dopo un incidente ferroviario. Anche qui gli elementi messi così sembrano un po' sparpagliati, ce li mette insieme, ricuce i fili della trama di questo film Look Both Ways, la nostra Daniela Fagion. Fumare, bere, assumere sostanze poco salutari, fare sesso senza cautele, sciare. Oh, winter, we got carried away. In molti modi la morte entra nella vita quotidiana, ma non per questo le impedisce di scorrere e continuare. Un incidente ferroviario segna il weekend di una città nel sud dell'Australia. Sul posto si reca immediatamente Nick, fotoreporter che ha appena scoperto di essere malato di cancro e che si guarda attorno individuando il monito alla fine in ogni situazione. Testimone oculare del disastro è Mary, l'artista appena rientrata in città dal funerale del padre, che Nick accompagna per un tratto di strada verso casa. Perché parliamo della morte? Non è come ai vecchi tempi, quando ne ignoravamo perfino il concetto. Il giorno dopo Nick torna a cercare Mary, le scopre di avere in comune con lei uno sguardo spaventato sulle cose. Lei ha appena perso il padre, appunto, lui ha affrontato lo stesso dramma qualche anno prima. Ce ne sarebbe di che piangere dal primo istante all'ultimo, ma la sintonia tra i due si rivela anche piena di passione e forse vale la pena di darle una chance. Attorno a loro, poi, amici e conoscenti gustano in modi diversi il sapore agrodolce dei cambiamenti. Così è la vita e se si accetta di superare la paura se ne possono scoprire molte pieghe inattese. Ti ho conosciuto venerdì, sabato siamo andati a letto, domenica ho incontrato tua madre e ora dici che vuoi troncare. Mai avuta una storia così tanto concentrata. Semplicemente toccante Look Both Ways, che arriva in Italia 4 anni dalla sua realizzazione. La regista australiana Sarah Watt dimostrava nel suo primo lungometraggio una grande confidenza con il linguaggio cinematografico, innestando nel montaggio delle riprese la sua esperienza nell'animazione e un amore evidente per la fotografia. Poca retorica nei dialoghi, i pensieri e le paure dei personaggi sono visualizzati soprattutto attraverso quadri, disegni, cartoni animati, foto, immagini estrapolate da documentari. Un continuo fluire di linguaggi capace di commuovere senza essere lacrimevole e di coinvolgere senza trascinare. La rosa purpurea. Forse pensi che questo mondo sia un sogno che si avvera. Ma ti sbagli. Coraline Jones è la protagonista del film con il quale apriamo la terza parte del nostro programma. Ed è uno dei film di animazione più attesi anche perché determina un salto in avanti davvero straordinario nell'uso della tecnologia tridimensionale. Ma andiamo con ordine: Coraline e la porta magica, il titolo del film, che arriva dal regista Henry Selick, niente meno che l'autore della regia appunto di Nightmare Before Christmas, film nato dal genio creativo di Tim Burton, ma che poi nel pratico fu proprio Selick a condurre in porto. Poi Henry Selick fece un altro film che magari ha avuto meno successo, ma io ricordo con grande piacere e proprio come un film di grande creatività, era James e la pesca gigante. Ebbene, questa volta arriva questa storia Coraline, che mette insieme il talento di Henry Selick con quello di un altro grande autore, questa volta di libri per ragazzi, come Neil Gaiman, a cui dobbiamo Stardust, che proprio l'anno scorso divenne a sua volta un film. La storia: Coraline Jones, che ha la voce tra l'altro di Dakota Fanning, è una bambina di 11 anni, esuberante, determinata, curiosa, che con i suoi genitori va a vivere in un piccolo paesino dell'Oregon, abbandonato il nativo Michigan, sicuramente terra più dinamica. Arriva in mezzo alle campagne dell'Oregon, in questa pink house, in questa casa rosa, sente ovviamente all'inizio almeno la mancanza dei suoi amici, che solo parzialmente viene mitigata con un bambino della sua età, YB Lovat. Va spesso a fare visita ai suoi vicini più grandi, anziani, come le eccentriche attrici inglesi, la signorina Spink e la signorina Forcible, e poi l'ancora più eccentrico russo signor Bobinski. Questa è la fauna, la varia umanità che popola questa vallata dell'Oregon. Che cosa caratterizza la vita di Coraline? Un rapporto con i genitori che è come il rapporto di tanti dei nostri figli con noi altri genitori, ovvero siamo spesso impegnati con il lavoro, siamo spesso stanchi la sera, magari non diamo troppa retta, e Coraline, nello specifico, si isola un po'. Un giorno Coraline scopre in casa una porta segreta murata, riesce a convincere la mamma ad aprire quella porta, e come recitano i titoli di alcuni capolavori dell'horror, mai aprire certe porte. Attraversato un lungo corridoio, anche abbastanza inquietante, un altro mondo, un mondo parallelo, dove esiste tutto quello che esiste nella realtà: un'altra madre, un altro padre, un altro amichetto YB, un'altra signora Forcible e un'altra signora Spink. Insomma, tutto quello che c'è nel mondo reale c'è anche da quella parte. C'è una piccola differenza: questo mondo parallelo, che diventa vero nel momento in cui Coraline dorme, è fatto di gente che al posto degli occhi ha dei bottoni. Ora, all'inizio Coraline è molto attratta da questa realtà, che è meglio della sua apparentemente. La mamma è più affabile, il papà è più giocherellone, la vita scorre più verde e più tranquilla. E il ritorno in sé la mattina, quando Coraline si sveglia nel grigiore apparente della sua vita quotidiana, non è certo dei migliori. Così Coraline continua a rifugiarsi con grande piacere in questo mondo parallelo. Ma un giorno l'altra madre decide che è arrivato il momento che i bottoni vengano attaccati anche a Coraline. Ti piace molto qui, vero Coraline? Puoi rimanere per sempre. Dobbiamo soltanto fare una piccola cosa. Il nero è tradizionale. Qui il film cambia genere, diventa quasi un horror per bambini. A proposito, film per ragazzi, per bambini sì, però non sotto gli 8-10 anni, perché effettivamente certe atmosfere sono abbastanza inquietanti. Coraline dovrà darsi da fare con un mondo che le si fa e le si disfa sotto i piedi, perché è un mondo assolutamente virtuale, preda di questa strega cattiva che cercherà di combinargliene di tutti i colori. Ci fermiamo qui per amore, come dire, del divertimento e della sorpresa che resterà ai nostri ascoltatori, ma vogliamo comunque parlarvi di questo film in termini di commento in maniera molto positiva. Prima di tutto perché è un film che racconta finalmente di questa realtà parallela che molti dei nostri giovani e giovanissimi vivono, questa sensazione del meglio che sta sempre da un'altra parte, insomma l'erba del vicino, eccetera, eccetera. La seconda questione è legata alla comparsa di un protagonista, per la prima volta a mia memoria nell'animazione, di un protagonista, dicevo, che è il nulla. Henry Selick gioca con questo concetto del nulla, come dicevo, disfando il mondo di Coraline sotto i suoi occhi e lasciandola senza uno sfondo, senza un background, senza una terza dimensione, che è anche quasi una contraddizione in termini per un film in 3D, tra l'altro visto con gli occhialini. E proprio su questo aspetto tecnico sta il terzo valore importante di questo film: mai il 3D era stato usato in questo modo. Ci sono momenti davvero straordinari che ci danno il senso, ci danno la misura di quanto questa tecnologia stia avanzando a passi da gigante. Chissà cosa vedremo in futuro. C'è una scena che è esemplificativa di quello che sto dicendo: una finestra bagnata, Coraline che gioca di fronte a questa finestra ma dall'altra parte del vetro, noi lo vediamo invece da fuori come se fossimo all'esterno e vediamo queste goccioline scorrere sullo schermo, sul grande schermo del cinema, come appunto si trattasse della finestra stessa. È davvero una immagine molto molto suggestiva. Insomma, una bella storia, molto particolare, molto poco mainstream in un certo senso, forse anche un po' troppo, nel senso che in certi momenti c'è qualche caduta di ritmo, come dicevo, non per bambini troppo piccoli, ma sicuramente per chi bambino un po' lo è rimasto. E siamo alla seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Frank, ho avuto un'idea meravigliosa. È tutto il giorno che ci penso. Piccola, cos'è questa storia? Sai quanti soldi abbiamo da parte? Sufficienti per vivere 6 mesi senza che tu guadagni un centesimo. E con quello che ricaviamo dalla casa e dalla macchina, molto più di 6 mesi. Quello che ricaviamo dalla casa? Tesoro, ma di che stai parlando? Dove andremo a vivere? A Parigi. La Rosa Purpurea @radio24.it per partecipare al nostro DVD game e provare a vincere questo film. Più tardi, un'altra possibilità. Parliamo ora di un film italiano di genere, l'unico che esce questa settimana, tra l'altro, si intitola Il Solitario ed è la storia di un criminale, di un rapinatore, unico sopravvissuto di una rapina. Atmosfere da film poliziottesco degli anni 70 e 80, ci racconta tutto Micaela Bellisario. È il colpo che può sistemarci per sempre. Quanto? 3 miliardi. È 1999, siamo a Parma, in ballo c'è un colpo da 3 miliardi di vecchie lire, ma la rapina finisce male, sangue, morti, un solo superstite, Leo Piazza, che fugge con il bottino e finisce a Roma. Lo ricercano i gangster, lui trova aiuto da un delinquente della vecchia guardia, viene nascosto, protetto da un'ex prostituta in attesa di un'improvvisa partenza per il Marocco, ma lui sa di essere un uomo morto e soprattutto si innamora. Tu hai fregato l'organizzazione! E nessuno frega l'organizzazione! Il Solitario è un noir per cultori del genere. C'è un eroe buono ma sporco che ti costringe a stare dalla sua parte. Ci sono criminali con un forte senso dell'onore ma pronti a tutto. C'è il gangster cattivo che per fortuna muore. Nel film del giovane regista Francesco Campanini ci sono molte citazioni che arrivano dal genere poliziesco anni 70, come ci spiega lui stesso. Ma sì, mi sono ispirato dai Senza Nome, a Franco Stello Faccia d'Angelo, a Tony Argenta, a Milano Calibro 9, ce ne sono tanti, diciamo, da cui ho preso spunto e ispirazione. L'idea del Solitario nasce da una grande passione per il cinema di genere, da grandi film di Jean-Pierre Melville a Fernando Di Leo a Duccio Tessari. Dato che sono un appassionato di questo genere, ho detto perché non cominciare a fare un film così, insomma, noir, di cui veramente ne guardo tantissimi. Nel cast è Francesco Barilli, Massimo Vanni, facce storiche dei noir, e un giovane Luca Magri che ha sceneggiato anche il film. Il mio genere preferito è il western. Allora, qua in Italia non si fanno i western, i noir sono dei western moderni, quindi va bene. Sì, alla Trantino, da noir metropolitano anni 80. Il nostro modello è stato Vivere e morire a Los Angeles, quindi poi chi se ne intende dopo capirà tutte le citazioni. Ed esaurito il racconto delle novità in sala, noi parliamo di un festival, ci spostiamo a Trieste, dove settimana prossima comincia la 10ª edizione di Mare Metraggio, uno dei festival dedicati ai cortometraggi principalmente, ma anche a tutto il nuovo cinema italiano, agli esordi dei registi italiani, diventati punto di riferimento appunto in questi 10 anni di storia e di vita di questo tipo di cinema. Noi siamo in collegamento con il direttore artistico di Mare Metraggio, Chiara Omero, che saluto. Ciao Chiara. Buongiorno a tutti. Ecco, Chiara, è un festival, quello di Trieste, appunto Mare Metraggio, che ha un rapporto con il pubblico davvero straordinario. Cioè, molto spesso i festival finisce che si fanno un po' per gli addetti ai lavori, un po' per la politica locale. E invece Mare Metraggio ha le sale sempre piene. Qual è, secondo te, la formula, il motivo per cui c'è questo forte legame con il territorio e quindi con il pubblico? Ma guarda, innanzitutto mi fa piacere che tu lo dica, perché visto che l'hai potuto constatare con i tuoi occhi, effettivamente, insomma, non è una cosa che diciamo noi, però effettivamente le 1000 passa persone a serata in un cinema, e poi oltretutto anche essendoci sdoppiati su due arene da un paio d'anni, perché facciamo le opere prime da una parte e i cortometraggi dall'altra, insomma, avere il pienone ogni sera in tutti e due i cinema effettivamente è la cosa che forse rende più orgogliosi e dà maggiore soddisfazione per le fatiche che uno fa durante tutto l'anno. E poi forse abbiamo avuto anche ragione noi ormai 10 anni fa di proporre un qualche cosa di alternativo, un qualche cosa che il pubblico ancora non conosceva, l'abbiamo forse pian pianino educato, e questo insomma è il risultato. Ecco. Cosa avete organizzato per questo compleanno speciale dei 10 anni, così per tirar su il morale agli astanti e in questo periodo di crisi, insomma? Beh, quest'anno una grandissima festa greca, perché c'è un focus che l'altro anno avevamo dedicato alla Romania, quest'anno l'abbiamo dedicato alla Grecia, in collaborazione oltretutto con il Drama Film Festival e con la Fondazione Ellenica di Cultura. Proporremo al pubblico ogni sera, anzi per 3 serate nell'arco della settimana, 10 cortometraggi che sono un po' gli ultimi 10 anni di programmazione ellenica. Poi avremo la prospettiva, che dedichiamo quest'anno ad Alvar Horvacher, che come tutti ben sanno è forse il volto emergente per quel che riguarda le attrici. E grazie a Chiara Omero, direttore artistico di Mare Metraggio a Trieste dal 26 giugno al 4 luglio. La Rosa Purpurea. I'm Julia Child. Buon appetito! Ed è questa la presentazione di una grande star di Hollywood, con la quale apriamo l'ultima parte della nostra trasmissione e anche la nostra rubrica Trailer USA, ovvero la vetrina sul cinema americano attraverso i suoni dei trailer originali. Era niente meno che Meryl Streep, attesa al suo nuovo film dalle sale cinematografiche d'oltreoceano. Ne parliamo con la nostra Michaela Bellisario, che è tornata qui con noi. Ciao Michaela! Ciao Franco! Allora, dicevamo, la voce di Meryl Streep. In questa puntata vi parliamo del suo prossimo film Julie and Julia, una pellicola diretta da Nora Ephron, regista, la ricorderete di certo, di commedie come Insonnia d'amore, C'è posta per te, attori come Meg Ryan, Tom Hanks, e poi anche sceneggiatrice di altre pellicole di successo, su tutte Harry ti presento Sally, insomma una mano sicura sulla commedia che conta, anche quella destinata a durare. Dicevamo però Meryl Streep, stavolta troviamo la nostra camaleontica attrice, dopo averla vista ballare e cantare in Mamma Mia, nelle vesti di una cuoca che diventerà famosa con un libro di ricette, Mastering the Art of French Cooking. Ma a te, Michaela, i dettagli. Sì, come dicevi, Julie e Julia è la storia di una cuoca, o meglio di due cuoche, un film che racconta la storia di due donne a distanza di 30 anni. Negli anni 60, nel 1961, Julia Child, interpretata da Meryl Streep, segue il marito a Parigi, non sa cosa fare, ama la cucina francese e così decide di seguire dei corsi. Dopo un po' le viene l'idea di scrivere un libro che diventerà un bestseller americano. In questo passo del trailer Meryl Streep si trova a tavola con un amico e gli confessa che lei ama mangiare e che insomma si annoia a non fare niente a Parigi. Shouldn't I find something to do? What is it that you really like to do? Eat. And we are so good at it. Look at you. Now, they're growing in front of you. Julia Powell ha invece 30 anni, vive nel Queens e ha un monotono impiego come segretaria. Ha bisogno di far qualcosa che spezzi la sua monotonia, così decide di prendere la copia di sua madre del libro di cucina di Julia Child, scritto appunto nel 1961 e che si intitola Mastering the Art of French Cooking. Dopo averlo letto, decide di preparare tutte le 524 ricette nel giro di un anno. A poco metterà online i risultati dei suoi esperimenti e scoprirà di avere tantissimi seguaci nel suo blog, e quindi si ripete 30 anni dopo l'exploit con cui era diventata famosa Julia Child. In questo passo del trailer Julia Powell ne parla con il suo fidanzato. I could write a blog. I have thoughts. Write a blog about cooking. I'm not a real cook like Julia Child. Julia Child wasn't always Julia Child. E allora, Micaela, il film uscirà quest'estate negli Stati Uniti, ancora sconosciuta la data italiana, ma lo aspettiamo per il prossimo autunno. Peraltro, in Julie and Julia si riforma la coppia Meryl Streep Stanley Tucci, che aveva già lavorato insieme nel Diavolo Veste Prada, e per chi avesse così voglia di scoprire l'origine letteraria di questo film, ebbene, Julie and Julia è tratto da un bestseller scritto da Julie Powell intitolato appunto Julie and Julia, 365 giorni, 524 ricette, una piccola cucina. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. Ed eccoci arrivati allora all'ultimo appuntamento, all'ultima finestra sul nostro DVD Game. Ascoltiamo la terza traccia del film misterioso di oggi. Sembri il gatto che si è mangiato il canarino. Hai qualcosa da dirci? Beh, in effetti, Millie, noi abbiamo una notizia importante da darvi, sì. Andremo in Europa. A Parigi. Oh! A viverci. La Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo per partecipare e provare a vincere questo DVD. È anche l'indirizzo, ve lo ricordo ormai da qualche settimana, per raccontarci in quale film vi siete particolarmente immedesimati. Ci ha scritto questa settimana, abbiamo scelto quello che ci ha scritto Alberto Meneghello, un nostro ascoltatore, il che è abbastanza preoccupante perché si è identificato in Apocalypse Now. Ora, non sappiamo quale vita conduca il nostro caro ascoltatore, ma dice il film che da sempre mi ha colpito in cui mi identifico è Apocalypse Now. Oltre che al percorso esteriore ed interiore che coinvolge il protagonista Martin Sheen, mi affascina la figura del tenente Bill Kilgore, con il carisma che ha con i propri soldati, rimanendo coinvolto in prima persona con la vita che fanno. Insomma, una identificazione anche questa, sebbene in un ambiente piuttosto violento e bellico. E allora noi andiamo avanti perché dobbiamo svelare invece la soluzione del DVD Game della scorsa settimana. Ascoltiamo una delle tracce. Domanda finale per 20 milioni di rupie e lui sorride. Credo tu sappia la risposta. Beh, non la so. Non la sai? Voglio telefonare a un amico. L'aiuto finale. Si trattava di The Millionaire, il grande successo, il grande acchiappatutto degli Oscar del febbraio scorso, uscito in DVD ora per la Lucky Red. Lo hanno indovinato per primi e quindi riceveranno a casa questo splendido DVD Roberta Gasparini di Tradate, provincia di Varese, e Maria Cattarelli di Botticino Sera, provincia di Brescia, due ascoltatrici lombarde, e anche questa è una cosa particolare di questa puntata. Per farci raccontare tutto su questo DVD, sul DVD di The Millionaire, noi siamo in collegamento con Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'opera di Lucky Red arriva in DVD addirittura in quattro versioni. Iniziamo con la qualità dell'opera in sé, pregevolissima, anche su DVD, disponibile in Dolby Digital Multicanale, la traccia non solo in italiano ma anche quella originale in inglese e indiano. Sono presenti degli extra molto interessanti, c'è cioè il commento del regista assieme al protagonista maschile principale, la realizzazione del film, un dietro le quinte, scene tagliate. Ricordo che appunto oltre all'edizione singolo disco è disponibile una seconda edizione con il CD musicale, una terza con in aggiunta la sceneggiatura del film e immancabile il Blu-ray alta definizione. E questo per quel che concerne appunto questa uscita di The Millionaire, una uscita estiva per un DVD che è uno dei più attesi, insomma, della stagione. Noi andiamo avanti perché abbiamo altri due film di cui parlarvi. Ce n'è uno molto molto particolare, un film che è stato un piccolo oggetto di culto negli anni e che però fino a questo momento mai si era visto appunto in DVD in Italia. Si intitola 24 Hour Party People e noi ascoltiamo insieme una clip. 4 giugno 1976, i Sex Pistols suonano a Manchester per la prima volta. Ci sono solo 42 persone in sala, ma ognuna di esse si sta nutrendo di potere, di energia e di magia. Ispirati usciranno e produrranno cose meravigliose. Quello è Johnny il Postino, lui è un postino. Distribuisce Officine Ubu, questo film di Michael Winterbottom che ci riporta indietro a Manchester nel 1976 a seguire le vicende di Tony Wilson, questo presentatore televisivo appassionatissimo di musica naturalmente alternativa e gruppi d'avanguardia. Si presenta, sarà uno dei pochissimi presenti al primissimo concerto dei Sex Pistols e fonderà questa etichetta discografica, la Factory Records, all'interno della quale confluiranno le nuove leve musicali dell'epoca, tra cui Joy Division. Il film è assolutamente di altissima qualità, per quanto riguarda la qualità video, doppia traccia in due canali, italiano e inglese, comunque di buona qualità, sono disponibili pochi extra, tra cui segnalo il trailer e la fotogallery. Molto interessante la scelta, oltre a quella di inserire all'interno dell'edizione la locandina che ripropone il poster originale del film, anche la copia digitale dell'opera. È stato sempre fonte di ispirazione da quando Cervantes lo fece diventare una storia patrimonio dell'umanità. Don Quixote torna a essere ispiratore e protagonista di un film, questa volta di un'animazione molto raffinata, dal titolo Don Quixote. Noi ascoltiamo la clip. Ma se non desiderate che quei due arrivino a Barcellona, perché li state aiutando? Non li sto aiutando, è una trappola! Se voglio far colpo sulla gente del villaggio, devo fingere di appoggiare Quixote. Mentre in realtà io lo voglio morto, sepolto insieme al suo amico Sancho. Distribuisce Mondo Home Entertainment questa coproduzione italo-spagnola del 2007, questo film di animazione in computer grafica che ci racconta la storia appunto di Don Quixote, del suo fedele scudiero Sancho Panza, che viaggiano insieme verso Barcellona, persuasi da un malvagio personaggio chiamato Carrasco a sfidare un misterioso cavaliere. L'avventura animata italo-spagnola in computer grafica del regista spagnolo José Pozzo trasforma questi eroi di Cervantes, li adatta ha un interessante racconto per i più giovani, anche se a mio avviso eccessivamente preoccupato di accattivarsi il maggiore pubblico possibile con una struttura tipica delle produzioni americane. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, perfezione assoluta. Per quanto riguarda l'immagine, è disponibile naturalmente una ottima traccia in Dolby Digital multicanale. C'è come extra un breve documentario sulla lavorazione. Ricordo che questo prodotto è disponibile anche in Blu-ray alta definizione. Come sempre esaustivo il nostro Claudio Poffi, che ritroveremo la prossima settimana a raccontarci le novità in DVD. Ciao Claudio. A presto, un saluto. E siamo giunti al termine della puntata della Rosa Purpurea, con la promessa di ritrovarci qui sabato prossimo alle 18 su Radio 24, domenica mattina per chi ci ascolta in replica alle 9, a continuare a parlare di tutto il cinema che c'è. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.